Ma questo contatto con il gruppo di ricerca internazionale, la facoltà, e che mi ha appunto messo in contatto con questo gruppo di ricerca con il quale però per ora non abbiamo avuto nessun contatto diretto. Moretti e io dovremo però andare alla prossima riunione a Losanna in autunno, e quindi magari allora sapremo effettivamente dire di più che cosa questi stanno effettivamente facendo, meglio di quello che non sia possibile da un breve resoconto fatto dallo stesso Charles, magnificando ovviamente la propria opera, insomma, come i francesi sanno fare francamente in modo molto persuasivo. Comunque il fatto è che questi studi di prosopografia sono uno dei settori sui quali ovviamente dovremo in qualche modo ritornare o col quale dovremo in qualche modo confrontarci. E ci confrontiamo male, nel senso che per l'Italia questo tipo di studi non esiste proprio per niente. Cioè, sappiamo tutti quanti come relativo agli universitari di questo periodo, insomma, e anche e soprattutto relativamente ai funzionari, a quegli alti funzionari dell'amministrazione dei quali sta cominciando a occupare Melis, ma pensiamo anche a tutta una serie di studi, di ricostruzione, di vicende biografiche di personaggi che stanno a crocevia tra la storia delle discipline e la storia della politica universitaria. Uno di questi, per dire, è Cannizzaro, al quale si faceva riferimento più avanti, e sui quali, insomma, si sa poco, si sa soltanto per settori, e che sono nomi però che si ritrovano con una grande frequenza ogni qualvolta si va a cercare sugli atti parlamentari il dibattito di uno dei tanti tentativi di riforma del sistema universitario che ci furono lungo il corso degli ultimi anni dell'Ottocento. E a questo proposito, naturalmente noi siamo aperti a tutti i suggerimenti, i consigli e le notizie che chiunque di voi saprà dare. Abbiamo incontrato Moretti e io appunto in questa settimana napoletana, che è un archivista del Centrale dello Stato, il quale sta ricercando archivi di scienziati, e che ha trovato archivi di scienziati non collocati ovviamente in archivi pubblici, insomma, non soltanto collocati in archivi pubblici, e che è una fonte di informazione notevole, insomma, anche per tutto un settore che ci interessa molto, cioè quello di cominciare a mettere in comunicazione informazioni sparse, ma che vale la pena appunto di concentrare su questo settore appunto della storia dell'università, inteso nel modo per ora più ampio. E poiché ora il tempo non è molto, forse piuttosto che parlare del convegno senese e quindi di problemi anche per i quali c'è bisogno di un minimo di discussione e di più notevole apporto da parte vostra, vale la pena però di segnalare questa iniziativa che abbiamo intrapreso qui con Gigi Blanco, e con la supervisione di Schiera, che ha visto in azione il programma bibliografico in questione, che è l'iniziativa sì, magari le distribuiamo, di cercare di cominciare a fare una bibliografia sulla storia dell'università in Italia dall'unità in poi. A questo fine abbiamo lavorato moltissimo alla messa a punto di un programma con un sistema di computer, un programma che ha una estrema flessibilità e che quindi ci si è dimostrato come più valido per poter lavorare su titoli così vari, differenti da quelli, insomma, più semplici ai quali siamo abituati al giorno d'oggi, su pubblicazioni fatte da un numero enorme alle volte di autori, con titoli lunghissimi, con dati bibliografici difficilmente gestibili in un programma semplificato e prefabbricato. Ci siamo fatti preparare questo programma del quale la cosa che ora vi distribuiamo è una maschera molto sintetica. Chiederemmo a tutti voi appunto di aiutarci a far confluire qui a Trento dati bibliografici di cui siete a conoscenza, dei lavori che avete visto citati. La maschera è estremamente semplificata proprio perché ogni campo ha l'estensione che voi volete, quindi ci consente di inserire appunto i testi più disparati da un punto di vista formale. La prima chiave è quell'autore, ovviamente si chiede di mettere prima il cognome e poi il nome e tutti gli autori, però, però presenti, anche se fossero 4, 5, sì, Babino Giuliano ci ha lasciato tutti un po' perplessi, però così poi il titolo. E che vorremmo appunto indicato proprio esattamente come sta sul frontespizio, cioè per quanto lungo, per quanto complesso, per quanto così. La terza chiave è quella del curatore, nel caso appunto che si tratti di un articolo, ad esempio, che appare in un volume a cura di. La quarta chiave op sarebbe opera nel senso di opera collettanea, titolo dell'opera collettanea, il luogo ovviamente il luogo d'edizione, l'editore, ovvio Il terzo l'editore. quindi entrano solo quando è Terzo e quarto necessario. si riempiono solo quando è Primo, secondo, necessario, quinto e sesto. primo, secondo, quinto e sesto sempre. Poi c'è rivista, appunto nel caso che si tratti di un articolo su rivista. Numero, NR significa numero della rivista e qui è un campo letterale, quindi va indicato sia la serie nel caso appunto che ci siano numerose serie, penso al caso della Civiltà Cattolica per esempio, sia l'annata, il volume, il numero e le pagine. E le pagine vanno proprio avanti. I fascicoli, quindi dare l'indicazione più completa Soprattutto qui in possibile NR, in NR. però lì bisogna però indicare un modulo. Ma no, il problema era appunto che un modulo fisso era difficile indicarlo in quanto ci sono riviste che hanno caratteristiche. No, se c'è il numero di nuova serie si mette lì, se no si mette. Poi si mette Certo, l'annata. l'annata, il numero romano progressivo dell'annata, il numero arabico dell'anno. Il numero arabico dell'anno va nella Numero, data però. numero. Comunque. Beh, quello Sì, bisogna farlo. sì, Cioè, bisogna proprio modulare l'informazione, perché è la roba più rognosa, quella del visto, della firma. sì. Sì, Quindi comunque bisogna. questa è una cosa che riguarda la messa a punto del programma e quindi noi non riguarda loro nel Vabbè, però senso. se no Certo, se lo fanno già giusto, certo, torniamo così nel tempo. certo. Questo ed 1 è la data della prima edizione, cioè nel caso ad esempio che noi abbiamo a che fare con un estratto o con un saggio pubblicato in una raccolta di saggi, però sappiamo che la prima edizione, mettiamo Carlo Cantoni, le università italiane e tedesche in Carlo Cantoni, scritti vari 1900, però noi sappiamo che questo saggio è del 1876, bisogna riportare. Se è riportato lì che si tratta la data, diciamo, della prima edizione, si riporta qua. Nel caso che ci sia un'edizione completamente diversa dell'opera che noi troviamo, si fa una scheda a parte, perché può avere un significato anche vedere che la stessa opera viene pubblicata 10 volte in 10 sedi diverse. Questo è un campo numerico, sì. Poi dunque c'è la data che è la data di edizione dell'opera alla quale ci si riferisce, cioè Quindi del bisogna mettere saggio. subito sotto questa. Autore, titolo, data, io mi metto. Benissimo, allora lo spostiamo Così sotto. come non so che editore data, io metterei pure luogo, editore, data, ecco, molto Tanto semplice. voglio dire, questi poi sono campi che si. Perché il metodo Sì, canonico sì, era sì. meglio. Luogo, editore, data. Va bene. Però bisogna dirglielo a lui Sì. perché è Poi più comodo per noi. pagina significa sia da pagina a pagina nel caso di un saggio o di un articolo, sia sia il numero complessivo delle pagine, nel caso di un opuscolo o di un libro. E questo è importante ovviamente per vedere, per avere subito l'idea dell'entità della pubblicazione a quale si fa riferimento. Poi ci sono gli ultimi dati, che non sono strettamente insomma legati al frontespizio, ai riferimenti bibliografici, e sono in qualche modo già chiavi di accesso a questo, e chiavi che danno ulteriori specificazioni sul lavoro. UNIV significa Università Ateneo, al quale il lavoro si riferisce. Cioè, sì, se il saggio in questione, il libro in questione, contiene in particolare indicazioni su un singolo ateneo, bisogna mettere il nome qui. Lo stesso per, o su due, o su tre, o su quattro. Cioè, per esempio, questo è il vantaggio di questo programma, è che ci consente di essere quanto più dettagliati vogliamo e di ripescare le informazioni. Quindi, se non c'è solo Pavia, ma insomma, un confronto tra gli Atenei di Pavia, Napoli, Sassari e Catania, si mette Pavia, Napoli, Sassari e Catania. Nel caso naturalmente che la persona in questione, la persona che compila la scheda, abbia letto il libro di cui. Un attimo, scusami. Poi c'è la facoltà. Facoltà ovviamente, appunto, c'è lo stesso discorso, se si tratta di facoltà di lettere, di giurisprudenza, di medicina, eccetera. Il periodo, questo è un campo letterale, cioè si può usare sia il numero degli anni, nel caso che si tratti di un periodo molto specifico, la situazione 1870-80, sia un periodo molto ampio, risorgimento, età liberale, 800, fascismo, adesso, eccetera. Poi questa chiave keyword vuol dire parole chiave, e potete mettere tutte quelle che voi ritenete utili, non so, studenti, professori, autonomia, riforma e così via. Le ultime tre si riferiscono alla biblioteca, cioè dare la sigla della biblioteca o il nome, poi noi provvediamo magari a dare delle sigle, della biblioteca nella quale l'opuscolo è stato visto, e ARC significa archivio ugualmente. E si prevede anche appunto la segnatura, soprattutto nel caso che l'opuscolo sia stato trovato in un archivio, questo perché sarebbe altrimenti impossibile ritrovarlo, non essendo catalogato. Ok vuol dire se è stato visto sì o no e da chi, cioè se io trovo dentro un opuscolo che sto studiando l'indicazione bibliografica di un altro testo, riporto l'indicazione sulla scheda, però ammetto che la segnalazione viene da me, Ilaria, ma no, che non l'ho visto questo testo. Quindi in fase poi diciamo di pubblicazione, se arriveremo a una pubblicazione, noi terremo conto delle schede tra virgolette pulite, cioè quelle che ciascuno di noi ha visto e che mette di aver visto, e quindi che garantisce di avere riprodotto fedelmente dal frontespizio, controllando tutti i dati. E per quelle che noi non abbiamo potuto reperire direttamente, ovviamente mancherà la segnatura della biblioteca dell'archivio e ci sarà scritto che non è stato visto questo lavoro. E poi l'idea è quella di far convergere a Trento da Gigi Blanco tutti questi dati, e via via di avere un tabulato riassuntivo ogni qualvolta insomma il volume dei dati sia stato sufficiente, insomma, e significativo. L'idea è quella di arrivare poi a una pubblicazione di una bibliografia, prima provvisoria, poi in qualche modo definitiva, ma anche di poter utilizzare questi dati adesso noi per le nostre ricerche. Quindi in questo senso le parole chiave sono molto importanti, perché ci consentono poi di ripescare, catalogate per parole chiave o per singole sedi universitarie o per singole facoltà, i dati, le schede, insomma i riferimenti, e anche avere un minimo di riferimento su dove le possiamo trovare nel caso che qualcuno di noi le abbia già viste, il che è una cosa che facilita notevolmente la ricerca. Aggiungo solo che l'idea di fare questa bibliografia, che ci sembrava molto importante, necessaria e senza dubbio una cosa utile, anche assai qualificante, poi se riusciamo a portarla a termine per il gruppo di ricerca e anche per l'istituto, insomma, per la ricerca CNR, eccetera, ci è venuta soprattutto quando Moretti e io, lavorando all'Archivio Centrale dello Stato, abbiamo scoperto che nel fondo istruzione superiore del Ministero della Pubblica Istruzione, c'erano una quantità di opuscoli, di polemiche anche spicciole, anche minime, anche su singole questioni, su singole università, ma che erano difficilmente reperibili altrimenti, che non stavano segnalati nelle quelle pur minime bibliografie, Pagliaini, e quindi abbiamo cominciato a prendere nota di questi opuscoli, ci siamo accorti che erano tanti, che c'erano dati già, insomma, notevoli per poter incominciare a mettere, insomma, le mani su questo opuscolame che, insomma, vale la pena di schedare e di segnalare. E d'altra parte noi poi stiamo facendo anche per altre nostre ricerche, spogli di riviste, quindi buona parte delle riviste in qualche maniera sono già coperte. Via via poi speriamo di poter indicare sempre con maggior precisione le riviste di cui vale la pena di fare uno spoglio a tappeto perché si presentano particolarmente significative, penso alle riviste appunto degli ingegneri e degli architetti, quindi di gruppi singoli, più che insomma anche riviste proprio di argomento universitario, che poi vorremmo in qualche maniera anche far convergere qui in fotocopia o in microfilm, almeno per quelle più importanti, tipo le riviste proprio di argomento strettamente universitario, in modo da costituire qui un primo gruppo di testi, diciamo, di interesse generale che consentano però ai partecipanti del gruppo di sapere che, insomma, si possono trovare qui, appunto. Che riguarda questo problema delle parole chiave. Siccome noi a Napoli abbiamo lavorato per un certo tempo alla realizzazione di un programma analogo, credo molti ne siano già informati, per la schedatura di allegazioni forensi nel fondo Lucchesipalli della Nazionale, uno dei problemi principali che ci si è posto è quello in caso di schedatori diversi, di persone diverse che schedano il materiale, che è un caso credo analogo a questo, è il ricorso a parole chiave diverse per significare in realtà molto spesso la stessa cosa. Allora io credo che sia sulla base di questa esperienza, che peraltro prevedeva un numero di schedatori di gran lunga inferiore a quelli presenti qui adesso, credo che sia opportuno a una prima fase, appena raccolta un certo numero di schede, stabilire una griglia di parole chiave da applicarsi, perché diventa un problema enorme poi andare proprio anche materialmente col computer, andare a rivedere la tabella di tutte le possibili parole chiave utilizzate di volta in volta, diventa una complicazione notevolissima. Volevo solo chiedere due o tre precisazioni per sapere eventualmente cosa scheda. Se si stabilisce, se è chiaro, un terminus a quo di questa storia e soprattutto un terminus a quem. È chiaro che noi non schediamo l'oggi, ma a che punto ci fermiamo? Letteratura e fonti, sono due Sì, problemi, no? su, d'accordo, ma Ma di fonti, sì, d'accordo. Però la storia dell'università fino a quale momento? De Vecchi, Bottai, il 60 o Gentili, insomma, questo va chiarito. Come va chiarito il terminus a quo? Secondo, posto che il terminus a quo, diciamo, sia, non so, il 48, facendo un'ipotesi, o il 59, le realtà locali preunitarie, raggiunte solo più tardi dal processo di unificazione, da Padova fino all'Università di Trieste, vengono schedate anche nella loro vita, diciamo, pre-Stato italiano? Cioè, la Padova austriaca dell'Ottocento, senz'altro, insomma. Appunto, dico tra l'altro. E soprattutto questo del termine di partenza, eccetera. Per il resto sono abbastanza d'accordo con quell'osservazione sulla cercare di raggiungere il massimo di univocità in certe parole chiave, che se no diventa una selva impossibile da gestire. Non ancora chiesto chiarimento, perché qui è un'altra cosa importante, non bene la cosa. Io ho un'osservazione da fare, dettaglio proprio minimo, però per me, cioè, per esempio, sarebbe opportuno comunque che risultasse forse una roba qui. No, in cui risultasse chi è che ha fatto la scheda. Sì. L'autore. Ecco, sono compresi anche gli articoli di giornale. Decidere su quella base, per esempio. Siamo stati completi, però sì. Non è di fatto. Poi dopo io farei, questo qui è un punto importante, dopo torniamo su questi punti qui, sono punti sostanziali, devo tornare. Io ho dei problemi formali invece, no? I due che ho detto sono quelli lì, cioè la data e la sigla di chi o il nome di chi fa la scheda. Poi avrei domando io, no? Per esempio, io metterei anche una segnalazione se nell'articolo, in questo caso, in questione, abbiamo fotocopie o microfilm disponibili. Ma nella biblioteca c'è, come se dice. Però questo qui è un'informazione in più, perché delle volte la biblioteca ISI, cioè io le ero microfilm, per esempio, qui non riesco a mettere in più. Quindi non ho. Ci sono delle difficoltà concrete di schedatura, di microfilm e di fotocopie. Facciamo così un concetto di università. Perché se no si crea un equivoco, cioè l'università in cui hai fatto la quindi propone di fare un campo terzo. Andrebbe istruita, perché ora ne stanno facendo molto di più nell'università. della tua unica indicazione di sì è un sì, sì. In qualunque tipo di stampa non ti risulta niente altro che un titolo. Ma tu la nascita ora... hai già autore, titolo, no, tanto. Ma l'importante è che non è. Sì, ma devi scrivere disse da qualche parte. E se al posto dell'editore ci mettessimo dissertazione? Al posto dell'editore dissertazione università primo relatore. Il primo relatore va messo, secondo me, chi ha commissionato, cioè. Per le tesi va sempre in misura. Scusate, siccome questo programma contiene poi, oltre a tutto questo, un campo memo, cioè un campo di diciamo ampio quanto vogliamo, nel caso invece di altri usiamo questo campo memo, tanto quanti saranno. No, comunque il problema è questo, tu devi dire quel signore che in qualche modo deve mettere la tesi, deve mettere il TIS, deve mettere fatto la regione il nome del relatore di tesi, cioè, è stato poi aggiornato, io ce l'ho fino a un volume così, ma che arriva fino a... si mette dissertazione, tutte le storie, invece c'è parecchia roba. Lettere, anche lettere. Sì, la facoltà ci vuole. Io normalmente le dissertazioni vengono, io per scusate, ma cioè, this Heidegger, c'è scritto e basta. E basta. Questa è la mia informazione, ormai, io anche nella bibliografia dell'istituto dell'educazione c'è sempre tese e poi pariti secchi, il nome del relatore si trova la Olione sì, basta. Sì, ci sono. Sì, ha ragione lui, basta Heidelberg schiera. Allora però ci vuole un campo, diciamo un campo relatore. Invece di mettere, tu potresti utilizzare anche il campo di curatore. No, perché mi fa confusione. Tu metti un campo tesi. Tu metti un campo tesi che rimane vuoto se non è una tesi. Se invece ripeto dis con due S punto e poi il nome del relatore, perché della città è il relatore. Il luogo, il editore. Pure anche città. Nel caso di una di una sede pluriuniversitaria, in certi casi a rilievo Milano Bocconi Cattolica Statale, non so se andrebbe distinto. Yeah. curioso. Arrivavano petizioni, professori che protestavano. No, adesso andiamo a mangiare. Vieni.